Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR 9. Chi siano stati che figliuoli di Israele, i quali abitarono i primi in Gerusalemme. Uffizi dei sacerdoti, e dei levili. Si ripetono le generazioni di Saul, e dei suoi figliuoli. Si è dunque fatto il conto di tutto quanto Israele, e il numero, a cui ascendevano, fu scritto nel catasto dei re di Israele, e di Giuda. Ed egli non furono trasportati a Babilonia per i loro peccati. Quelli poi, che abitarono i primi nelle loro possessioni, e nelle loro città, furono gli Israeliti, i sacerdoti, i Leviti, e i Natinei. Dimorarono in Gerusalemme parte dei figliuoli di Giuda, e dei figliuoli di Beniamin, e anche dei figliuoli di Efraim, e di Manasse, Potei figliuolo di Ammiud, figliuolo di Amri, figliuolo di Omrai, figliuolo di Bonni, uno dei figliuoli di Fares, figliuolo di Giuda. E Asaia primogenito di Siloni, e i figliuoli di lui. Jeuel uno dei figliuoli di Zara, e i fratelli di questi, 690, e dei figliuoli di Beniamine, Salo figliuolo di Musollam, figliuolo di Odvia, figliuolo di Asana, e Giobania figliuolo di Geruam, ed Eia figliuolo di Ozzi, figliuolo di Mocori, e Musollam figliuolo di Safatia, figliuolo di Rauel, figliuolo di Gebama, e i fratelli di questi divisi nelle loro famiglie in numero di 956. Tutti questi furono capi di diversi rami della loro consorteria. Dei sacerdoti poi vi fu Jedaia, Joairib, e Iachin, come anche Azzaria figliuolo di Elcia, o il figliuolo di Musollam, figliuolo di Sadoc, figliuolo di Maraiot, figliuolo di Achitob, pontefice della casa di Dio. E Adaia figliuolo di Geruam, figliuolo di Fassur, figliuolo di Milchia, e Masai figliuolo di Adiel, figliuolo di Esra, figliuolo di Musollam, figliuolo di Musollamit, figliuolo di Emraer, e insieme i loro fratelli capi delle loro famiglie in numero di 1760 uomini robusti e vigorosi per portare le fatiche del ministero nella casa del Signore. Dei Leviti poi Semeia figliuolo di Assub, figliuolo di Ezricam, figliuolo di Asebia, uno dei figliuoli di Merari, e Bacbacar legnaiuolo, e Galal, e Matania figliuolo di Mica, figliuolo di Zecri, figliuolo di Asaf, e Obdia figliuolo di Semeia, figliuolo di Galal, figliuolo di Iditun, e Barachia figliuolo di Asa, figliuolo di Elcana, il quale abitò nei villaggi di Netofati. I portinaggi furono Sellum, e Accub, e Telmon, e Aimam, e il loro fratello Sellum era loro capo. Fino a quel tempo una parte dei figliuoli di Levi erano di sentinella ciascuno a suo turno alla porta del re, che è a Levante. Sellum figliuolo di Core, figliuolo di Abiasaf. Figliuolo di Core coi suoi fratelli, e con la famiglia del padre suo, questi sono i Coriti, che presiedono ai lavori concernenti il ministero, e hanno la custodia dei vestiboli del tabernacolo, e le loro famiglie a vicenda sono di sentinella all'ingresso del campo del Signore. E Finees figliuolo di Eleazzaro era loro capo nel servigio del Signore. E Zaccaria figliuolo di Musallamia era custode della porta del tabernacolo del testimonio. Tutti questi eletti a stare di guardia alle porte erano 212, ed erano descritti nel catasto delle loro città, e furono istituiti da Davide, e da Samuele profeta per la loro fede, tanto essi, come i loro figliuoli per custodire le porte della casa del Signore, e del santuario secondo il loro turno. I portinaggi erano collocati secondo i 4 venti, viene a dire, a levante, a occidente, a settentrione, e a mezzodì. E i loro fratelli stanziavano nei loro villaggi, ma venivano nei loro sabati di settimana in settimana. A questi 4 leviti erano subordinati tutti quanti i portinaggi, ed esse soprintendevano alle camere, e ai tesori della casa del Signore. Egli non parimente dimoravano ai loro posti attorno al Tempio del Signore, e venuta l'ora, aprivano al mattino le porte. Di questi alcuni avevano la custodia dei vasi, che servono per il ministero, però che si contavano i vasi, quando si mettevano fuori e quando si rimettevano dentro. Di questi, che avean la custodia dei vasi del santuario, alcuni avean cura della farina, e del vino, e dell'olio, e dell'incenso, e degli aromi. Ma erano i figliuoli dei sacerdoti quelli, che facevan gli unguenti con gli aromi. E Matatia Levita primogenito di Sellum di Core avea cura di tutto quello, che si friggeva nella padella. Alcuni dei figliuoli di Cat loro fratelli erano deputati sopra i pani della proposizione per prepararne sempre dei nuovi ogni sabato. Questi sono i capi dei cantori di famiglie levitiche, i quali abitavano nelle camere annesse al tempio, affinché potessero di continuo e di e notte applicarsi al loro ministero. I capi dei leviti, principi nelle loro famiglie, stavano in Gerusalemme. Ma abitava in Gabaon, Jeiel fondatore di Gabaon, la di cui moglie si chiamò Maacha, Abdon suo figliuolo primogenito, Esur, Echis, Ebal, Ener, Enadab, e parimente Gedor, e Aio, e Zaccaria, e Macellot. E Macellot generò Samaan. Questi abitarono in Gerusalemme coi loro fratelli di rimpetto agli altri loro fratelli. Ner poi generò Cis, e Cis generò Sol, e Sol generò Jonata, e Melchisua, e Abinadab, ed Esbal. Meribaal fu figliuolo di Jonata, e Meribaal generò Mica. Figliuoli di Mica, Fiton, e Melech, e Tara, e Aaz. E Aaz generò Yara, e Yara generò Alamat, e Asmot, e Zamri, e Zamri generò Mosa, e Mosa generò Banaa. Il di cui figliuolo Rafaia generò Elasa, da cui nacque Asel. Orasel ebbe sei figliuoli, i nomi dei quali furono Ezricam, Bocru, Ismael, Saria, Obdia. Anan, questi sono i figliuoli di Asel. Note, 9,1. Si è dunque fatto il conto e ci vuol dire, ho finora dagli atti pubblici trascritto il numero degli uomini, a cui ascendeva ciascuna tribù prima della trasmigrazione. Ed egli non furono trasportati a Babilonia. Con la tribù di Giuda furono trasportati a Babilonia molti delle 10 tribù, le famiglie dei quali non volendo seguire lo scisma di Jeroboam, si erano ritirate fin d'allora nel regno di Giuda, o al tempo della cattività delle 10 tribù si rifugiarono tra Giudei. Questi israeliti adunque dopo i 70 anni di schiavitù tornarono anch'essi con Giuda nella Palestina. Egli non avean conservati i registri pubblici delle loro genealogie, custoditi con molta cura da tutta la nazione. Quindi viene adesso il sacro storico a descrivere quelli, i quali dopo la cattività tornarono i primi ad abitare nel loro paese, divisi come erano per l'avanti in 4 classi, vale a dire sacerdoti, leviti, israeliti e i servi pubblici di nazione stranieri. Questi ultimi furono dapprima i Gabaoniti, dei quali vedi Os. 9:27, indi a questi si aggiunsero molti dei Cananei, a quali fu salvata la vita con la condizione di servire in aiuto dei leviti e dei sacerdoti. Vedi 3. Regione 9. 20:21. 9,4. Otei figliuolo di Ammiud. È molto verisimile che egli sia lo stesso, che quello, il quale è detto Ataia figliuolo di Usia, 2 Adr. 11:1. 2. La maniera di pronunziare i nomi ebrei è poco costante. Oltre a ciò, molti aveano due nomi, e molti sono nominati in Esdra, e tralasciati in questo luogo, e altri nominati qui, e omessi in Esdra. Così nessuno dee maravigliarsi delle varietà che si incontrano tra l'una e l'altra descrizione. 9,11. Azzaria. Pontefice della casa di Dio. Azzaria è detto Saraia, 2. Esde. 11:11. Egli non era sommo pontefice, però che questa dignità l'avea Gesù figliuolo di Osedec, ma egli teneva il primo posto dopo il sommo pontefice. Vedi 4 ragioniere 25esimo. 18, 9,15. Bacbacar legnaiuolo. L'esercizio delle arti meccaniche non era disprezzato tra gli ebrei, come nemmeno presso le antiche nazioni, e i leviti e i sacerdoti, che non avevano campagne da coltivare, e avevano molto tempo libero dalle occupazioni del ministero, potevano impiegarlo in qualche onesto mestiere. 9,17. I portinai. Sellumeci. Questi 4 erano capi dei leviti portinai, e Sellum ama la preminenza sopra di tutti. 9,18. Erano di sentinella. Alla porta del re, Eci. A quella porta, per cui il re entrava nell'atrio dei sacerdoti. Vedi 4. Regione 16. 18, 9,19. Sono di sentinella all'ingresso dal campo del Signore. Custodivano il Tempio di Dio al presente, come i padri loro custodivano undi il tabernacolo, che era nel mezzo degli alloggiamenti di Israele, al qual tabernacolo fu sostituito il Tempio. 9,22. Furono istituiti da Davide e da Samuele, virgola. Per la loro fede. Davide ebbe molta attenzione, perché il servizio della casa del Signore si facesse con la maggior decenza e dignità, e può ben essere, che quello che intorno a ciò fu ordinato dallo stesso Davide, fosse stato già ideato e suggerito da Samuele, onde l'uno e l'altro sono nominati come autori di sì belle istituzioni degne della loro fede e dello zelo, che ebbero per l'onore di Dio e pel decoro della sua casa. 9,26. A questi 4 leviti Eci. A quelli che son nominati, V17. Alle camere e a tesori. Alle camere, dove stavano i tesori della casa del Signore, le suppellettili sacre, i vasi, Eci 9,31, di tutto quello che si friggeva nella padella. Si è veduto già come in certi sacrifici si offerivano sull'altare degli olocausti schiacciate, o simili cose fritte con l'olio. Vedi Levit. 7, 12. 8, 28. 9,33. Questi sono i capi dei cantori Eci. Probabilmente ciò si intende di quei 4 leviti rammentati, V17 e 26. 9,34. I capi dei leviti. Stavano in Gerusalemme. Erano sempre di servizio, e non a turno, come gli altri, onde non potean discostarsi da Gerusalemme. 9,36. Ma abitava in Gabaon, Eci. Da Cleviti torna alla stirpe di Beniamin, Eci dà nuovamente la genealogia di Sol per passare a Davide, per ragion del quale, o piuttosto del Messia, che dovea nascer da lui, sono scritte tutte queste cose.